Antisemitismo, l'antico nemico e ancora l'armata dei bot sauditi. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Germany has since World War II had a very strong national socialist Nazi scene. Ich muss dazu sagen, ich war 10 Jahre in der Neonazi-Gruppe, bin dann durch meinen Konflikt in der Universität. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Anche quest'oggi, venerdì, o se nessun luogo lontano, il vostro osservatorio per tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra di Nessun Luogo, quest'oggi Antonio Italia, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Luca Cremonese e Valeria Bernardi che è in regia. 349-238-6666 è il numero per commentare i temi che tratteremo in questa puntata via WhatsApp oppure via SMS. Potete farlo anche via Facebook. La pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Lì trovate anche la diretta Facebook. Infine Twitter, potete cinguettare usando questo social i due account che sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio personale che è Giampaz. Come avete sentito dai titoli, tratteremo in questa settimana in cui si arriva a compimento della celebrazione della giornata delle memorie in vista di lunedì 27, parleremo del fenomeno dell'antisemitismo che in Europa ha destato parecchie preoccupazioni, complice fra l'altro una serie di rapporti che sono usciti anche recentemente e che abbiamo citato anche nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano. C'è quello francese che è piuttosto allarmante: il 75% degli ebrei francesi non si sente sicuro, si è sentito o si sente minacciato. Poi daremo anche altri numeri, evidentemente, per cercare di fotografare un fenomeno che è ben lungi dall'essere sconfitto. Prima però ci dedicheremo ancora una volta a quel fenomeno che abbiamo iniziato a raccontare proprio ieri, cioè come la cybersfera in Arabia Saudita sia un gigantesco terreno di scontro fra il regime e gli oppositori. Detto ciò, anche se è venerdì, anche quest'oggi misuriamo la temperatura. Gli ultimissimi aggiornamenti che arrivano dalla Cina e da Pechino. Un ascoltatore ci ha chiesto via social proprio poche ore fa se fossero veri quei video che apparentemente arrivati da Wuhan mostravano gente che collassava per strada, insomma momenti piuttosto drammatici. In realtà non c'è modo di verificarli, a noi non risulta affatto. In più, considerando anche le grosse testate internazionali che sono presenti, seguiamo per esempio tra gli altri anche il New York Times che non ne ha dato notizia, ci sentiamo per il momento di fugare questa drammaticità, queste immagini che stanno circolando, che anzi molto probabilmente sono dovute a qualche troll, come si dice, o qualcuno che pesta e rimesta nel torbido. Detto ciò, è anche vero che il Pechino sta aumentando il cordone di sicurezza e ha esteso i divieti di spostamento a 12 aree urbane nella zona di Wuhan, e a questo punto i divieti di spostamento coinvolgono ben 35 milioni di persone. Lo ricordiamo, in questi giorni ci si appresta, in queste ore ormai manca davvero poco, a celebrare il Capodanno cinese, che quest'anno evidentemente avrà delle celebrazioni in tono minore. Il nostro termometro internazionale ci riporta poi in Europa, perché nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano avevamo raccontato di quel braccio di ferro tra il potere esecutivo polacco e la magistratura. Vi ricordate? Un dissidio potente pronunciato. Ebbene, cosa è accaduto? Che il massimo organo di giustizia della Polonia ha dato l'ok definitivo a una legge particolarmente controversa che avevamo raccontato. Questa legge permetterà al governo di punire anche con licenziamento i giudici che criticano le riforme giudiziarie, le nomine di cariche pubbliche, e proibisce ai giudici di svolgere qualsiasi attività politica che possa essere considerata politica. Per doveri di cronaca devo anche rammentare che questa proposta di legge, oramai divenuta legge, era stata fortemente criticata dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, oltre che da una pletora di esperti di diritto internazionale. E ricorderete quella marcia dei giudici, forse un caso unico, un evento eccezionale in Europa, oltre 25.000 persone nel centro di Varsavia, e in prima linea c'erano tanti giudici, non soltanto polacchi, ma provenienti da tutti i paesi europei. Nel frattempo arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, fra poco ve ne darò conto, anzi se il, in realtà il primo è particolarmente interessante, ne stavamo discutendo prima in redazione, ho sentito che a Wuhan in 10 giorni renderanno operativo un nuovo ospedale, al di là dell'essere impressionato dalla celerità di questa iniziativa, al di là della problematica prettamente sanitaria, credo che il rischio e la paura di un danno economico che possa incidere sulla crescita sia molto molto rilevante, così Pierpaolo che ha decisamente ben fotografato la situazione. Poi c'è anche un problema di immagine in senso lato per ciò che riguarda il regime di Pechino. Detto ciò, Valeria Bernardi, il termometro internazionale si chiude qui, perché voglio riprendere il discorso iniziato ieri, voglio parlarvi dell'esercito dei bot sauditi. Prima di farlo vi faccio sentire la voce di Giorgio Caffiero, analista e guida di Gulf State Analytics, esperto di questioni del Golfo e anche dell'Arabia Saudita, perché anche ricevendo i messaggi ieri al 349-238-6666 ho avuto la sensazione che condivideste con me la percezione della monarchia saudita come un podium monolite, errore che si fa molto spesso trattando di paesi non troppo raccontati. Allora proviamo a entrare in punta di piedi nei palazzi del potere della monarchia saudita, e lo facciamo con la voce di Giorgio Caffiero, sentite. Many analysts refer to the kingdom's crown prince. Molti analisti, quando parlano del principe ereditario, si riferiscono a Mohammed bin Salman come al sovrano de facto del regno saudita. Ma io penso che questa visione non sia precisa. Il termine de facto non descrive in maniera precisa la posizione di Mohammed bin Salman. Lui divide il potere con il padre, re Salman. Ora, in questi ultimi anni, lui ha avuto sempre più potere, ma oggi gli uomini che governano in Arabia Saudita sono due, il re e il principe ereditario. La voce di Giorgio Caffiero, analista e guida di Gulf State Analytics, ci come dire, riconduce a quella che è la realtà. C'è un potere condiviso, peraltro anche con una certa partizione dei poteri. È anche vero che il principe Mohammed bin Salman, giovane figura emergente nell'agone internazionale, si è ritagliato uno spazio di visibilità molto molto grande. Ieri abbiamo cercato di illuminare anche quelle che sono le zone d'ombra del regime saudita. E abbiamo fatto un piccolo esperimento, ieri non ho fatto tempo a raccontarvelo. Mentre la campagna boycott Amazon impazzava, ma attenzione perché qua ci siamo trovati di fronte a una prima difficoltà, se digitate l'hashtag boycott Amazon in lingua inglese, ieri, mentre abbiamo fatto questa ricerca, non era affatto tra i trend. Mentre se lo digitavi in lingua araba diventava immediatamente un trend. Abbiamo cercato in sostanza, e tra poco vi spiego come, di valutare la reale portata e potenza invasiva di questo social, soprattutto nei paesi medio orientali, del Golfo e in particolare in Arabia Saudita, andando a verificare gli hashtag più di tendenza. Dicevo, mentre boycott Amazon, che racchiudeva un po' anche tanti temi non politici, qualcuno che si lamentava perché per esempio il pacco era arrivato in ritardo, faccio un esempio, qualcuno che si lamentava e partecipava attivamente alle condizioni di lavoro dei lavoratori e quindi boycott Amazon, in realtà digitandolo in arabo usciva sostanzialmente un vero e proprio attacco politico a Jeff Bezos. Vi abbiamo raccontato proprio ieri, no, di questo braccio di ferro con questo presunto hackeraggio da parte di Mohammed bin Salman con quei 3 messaggini WhatsApp ai danni dell'uomo più ricco del mondo. Allora, dicevo, boycott Amazon in lingua inglese non era tra i top trend, lo era in lingua araba. Per esempio, in Arabia Saudita era il primo, mentre a livello mondiale era il 14esimo. Mentre facevamo questa ricerca abbiamo fatto un po' di screenshot, abbiamo fotografato lo schermo, adesso la redazione di Nessun Luogo Lontano sta proprio postando sui nostri social i risultati, no? Il work in progress di questa protesta. Siamo andati avanti, sempre con i caratteri arabi, abbiamo digitato Bezos e Jeff Bezos per andare a vedere un po' di commenti. E ne abbiamo trovato uno, per esempio, la storia insegnerà che durante il regno di Mohammed bin Salman il regime ha messo in atto il più stupido assassino e hackeraggio di tutti i tempi. E Faeku, un altro utente, caro Bezos, non ti devi fare pubblicità perché non ne hai bisogno. Le tue accuse nei confronti del principe Mohammed bin Salman sono infondate, perché è stato proprio lui, il principe, a incontrarti qualche tempo fa per parlare di investimenti nel nostro paese. Quindi apparentemente una dialettica, una diatriba che funziona, ma questi erano utenti veri. E l'esercito dei bot? Beh, ne abbiamo analizzati qualcuno. Allora, è interessante un nome, che è Motaz Mohammad, è un nome molto comune in Arabia Saudita, registrato nel 2014 con 1227 tweet. Sostanzialmente quello che abbiamo scoperto è che la tecnologia che viene utilizzata, quindi il software che va a replicare, a twittare, quelli più raffinati possono rispondere, commentare, hanno un comportamento quasi umano. Beh, questo decisamente, come sussurravamo già ieri, non ha una tecnologia particolarmente raffinata. Siamo partiti da quel account Twitter, da quel bot, quindi da quel software che in realtà, come dire, doveva ingannare, e abbiamo scoperto, caricando la foto del profilo su Google Images, che vi erano una serie di quasi infinita di account con la stessa foto. Alcuni erano uomini, alcuni erano donne, e sostanzialmente facevano quasi il copia e incolla dello stesso messaggio, ed erano attacchi verso Bezos. In generale, sempre, come dire, indagando nella sfera di Twitter, ma relativamente all'Arabia Saudita, si vanno a scoprire altre cose, per esempio che sono molti attivi gli account dei dissidenti dall'estero e anche l'opposizione saudita stessa. Ultimamente uno degli hashtag più in voga ruotava al caso di un'attivista saudita, Madawi al-Rashid, che è stata ospite di un canale arabo che però trasmette dagli Stati Uniti, Al-Harra. Madawi aveva accusato le autorità saudite di continuare a avere un comportamento sessista e molto maschilista. Alla fine della puntata è partita la pioggia, centinaia, migliaia di tweet che accusavano la giornalista di aver infangato l'immagine della monarchia, e l'hashtag di tendenza era "Stai zitta Madawi", e anche qui riconducibile la maggior parte, il corpo più massiccio di questa campagna, proprio agli stessi bot. Ultimo tassello di questa interessante narrazione: non ci si aspetta forse dall'Arabia Saudita, come dire, una sfera di Twitter, di social così attiva, e lo è, tanto che la stessa monarchia sta usando i social network per rifarsi il look, il maquillage. Si è spesso parlato dell'operazione di rinnovamento, quantomeno di facciata, di Mohammed bin Salman. I detrattori dicono di facciata, chi conosce un po' meglio forse l'Arabia Saudita si azzarda a dire: guardate che sta cambiando davvero, è un primo cambiamento. Detto ciò, il 19 dicembre del 2019 si è svolto a Riyadh il MDL Best Fest. Era un festival di musica techno, house ed elettronica, per un paese che prima, come dire, forniva una programmazione di musica tradizionale, locale, spesso di sfondo religioso. Si è trattata di una vera rivoluzione, e super ospite, io non sono esperto di musica elettronica, ma qualcuno in redazione mi ha sussurrato, è tra i numeri uno, c'era David Guetta. Ultimissimo tassello per raccontarvi anche di come Riyadh stia utilizzando i social: sono stati organizzati sostanzialmente dei viaggi, tutto è pagato, super lusso, per delle modelle, per delle influencer, le quali avrebbero dovuto farsi delle foto, godere della vacanza a Riyadh in Arabia Saudita e poi celebrare magari con degli hashtag quanto fosse alla moda e quanto fosse gradevole soggiornare in Arabia Saudita. Molte di queste modelle hanno fatto il viaggio, alcune non hanno messo alcun hashtag, e altre modelle, anche di nome e di calibro, si sono addirittura rifiutate. Insomma, tutto questo per raccontarvi di come le grandi relazioni internazionali, i pesi di potere nel Medio Oriente allargato, a volte si giochino a colpi di Instagram. 349-238-6666. Un ascoltatore mi dice: ma non ascoltate il messaggio? Non prendiamo i messaggi vocali, vi ricordo potete scrivere, vi leggo volentierissimo sia SMS che WhatsApp al 349-238-6666. Qualcuno dice: l'apertura a qualsiasi forma d'arte è sicuramente un segno di cambiamento. L'ascoltatore mette cambiamento tra virgolette, ma sono assolutamente d'accordo. Come mi sento di dire che, come dire, i cambiamenti non si possono fare in un anno, regimi così consolidati, così assoluti, come il caso dell'Arabia Saudita, evidentemente hanno bisogno di periodi di transizione. Basti immaginare le primavere arabe, siamo ancora nel pieno della transizione, non si sa che Medio Oriente, che Nord Africa scaturirà da quel 2011. Adesso chiudiamo quest'ultima pagina, apriamo la pagina centrale di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, collegandoci con Raffaella Calandra, inviata di Radio 24. Con lei avevamo già parlato del suo lungo lavoro realizzato in parte anche in Germania sull'antisemitismo, l'abbiamo sentita da Auschwitz. Raffaella, ben ritrovata a Nessun Luogo è Lontano. Ciao Gianpaolo, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, oggi vi proporremo in maniera un po' più articolata quelle che sono delle testimonianze che hai raccolto per poi, come amiamo fare noi, mettere il grand'angolo e analizzare il fenomeno dell'antisemitismo. Sei stato in Germania abbastanza recentemente che, come dire, anche dal punto di vista storico allarma quando vi sono rigurgiti neonazisti, e abbiamo sentito un paio di voci. Se ti senti, Raffaella, di riassumere quello che sarà il reportage che diventerà poi una tua puntata, la prossima, di domenica, di Storiacce, anticipaci, come dire, il senso e i risultati di questo viaggio nel mondo dell'antisemitismo, soprattutto in Germania. In Germania a preoccupare sono soprattutto una serie di gruppi neonazisti, autenticamente neonazisti, che sono stati scoperti dalle varie inchieste delle forze dell'ordine dopo una serie di episodi molto gravi. Si è registrato un aumento molto forte di attacchi nei confronti di politici che accolgono migranti, di episodi più o meno gravi nei confronti della comunità ebraica, a cominciare ovviamente dal grave attentato di Halle contro la sinagoga di Halle nell'ex Germania dell'Est, tutta una serie di segnali che fanno scattare l'allarme rispetto ad un ritorno di antisemitismo soprattutto nella zona dell'ex Germania dell'Est, in particolar modo in Sassonia, laddove poi tra l'altro bisogna affiancare anche il tema politico dell'exploit dei partiti di estrema destra. Dresda, ossia il capoluogo della Sassonia, è anche il luogo di ritrovo dei gruppi di Pegida che si ritrovano quasi ogni lunedì appunto per marciare e per ritrovarsi anche appunto nella città di Dresda. Questi sono tutti segnali di un antisemitismo che porta le forze dell'ordine ad aver poi stimato nel numero di 12.700 persone i militanti neonazisti che loro considerano anche pronti alla violenza, dopo una serie di inchieste che passano attraverso gli arresti della cosiddetta rivoluzione Chemnitz, un gruppo di ragazzi che sono sotto processo perché tramavano organizzazioni proprio anche eversive, ad altri gruppi che sono considerati anche responsabili di attacchi, di attentati e anche di omicidi. Ecco, se questo, come giustamente ricordavi, nella Germania, in particolar modo nella Germania dell'Est, è il caso anche simbolicamente, oltre che anche numericamente, più preoccupante, ci sono segnali di antisemitismo in gran parte dell'Europa, denunciati anche dalla vicepresidente del Parlamento europeo che in questo viaggio ad Auschwitz che ho fatto ha voluto puntare l'attenzione proprio su questa nuova sensazione di insicurezza registrata da quasi la metà dei componenti delle comunità ebraiche nei vari paesi europei. Ci sono di vario tipo gli attacchi, cioè una ragazza francese ha ricordato la storia di sua nonna che era una sopravvissuta all'olocausto, Marie Knoll, sopravvissuta all'olocausto ma è stata uccisa non molto tempo fa in un attacco di un estremista islamico di uno dei paesi provenienti che questo è un tema molto sensibile e molto delicato, cioè il fatto che ci siano degli episodi di antisemitismo collegati a stranieri, a migranti arrivati in Europa da paesi che sono notoriamente contrari ad Israele e che quindi questo in qualche modo favorisce, incrementa anche il vento dell'antisemitismo che però è molto forte in molte realtà europee, Italia compresa. Certo, Raffaella Calandra, inviata di Radio 24, ha esplorato e sta esplorando non soltanto il sentimento di antisemitismo ma anche quello che è il rigurgito neonazista in Germania. Hai fatto bene, hai fotografato con grande lucidità quella che è una preoccupazione condivisa da tante comunità ebraiche, in particolare quella francese. Davamo conto ieri di questa ricerca, i numeri sono allarmanti, quasi 3 ebrei su 4 si sentono insicuri o hanno subito attacchi. Raffaella Calandra, noi ci risentiremo qui su Radio 24 con Storiacci, una puntata speciale proprio dedicata a questo, ci avviciniamo al giorno della memoria. Intanto ti ringrazio ma ti informo, attenzione, che daremo un assaggio ai nostri ascoltatori con le voci che hai raccolto, da un lato il rabbino regionale per la Sassonia e dall'altro il portavoce della polizia di Dresda. Intanto Raffaella, grazie mille e buon lavoro e alla prossima. Grazie a te, ciao Gianpaolo.

Vincenzo. Altissimo. Devi confessarmi qualcosa. Eh sì. In poltrone sofà speciale stock, con sconti fino al 76% su tutta la collezione. In più 1500 divani con penisola in pronta consegna a €299. Termina domenica 26 gennaio. Domenica? Dopo la messa, ovviamente. Poltrone sofà, autentica qualità. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. La seconda e ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Mettiamo il grand'angolo, come amiamo dire, dalle storie raccolte da Raffaella Calandra nell'allarmante Sassonia, allarmante per il rigurgiti neonazisti. Torniamo invece a quello che è uno dei motivi e dei contenuti di questa puntata, in parte anche legato, che è appunto l'ascesa dell'antisemitismo. Vi do i dati dell'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea per i Diritti Umani, secondo il quale nell'ultimo decennio ci sarebbe stato un incremento dei casi di antisemitismo in tutta Europa. Nell'analisi dell'agenzia, che riporta dati ufficiali e non, viene messa in evidenza innanzitutto la difficoltà nel raccogliere questi dati e queste statistiche, molto spesso per una ritrosia da parte delle vittime persino a denunciare, o anche i testimoni a testimoniare in casi di antisemitismo. La raccolta dei dati avviene anche attraverso i social e comprende sia violenza verbale che violenza fisica. Secondo l'Osservatorio sul pregiudizio anti-ebraico contemporaneo, in Italia 2016 130 episodi, 2018 181, in Francia nel 2018 459 casi, nel 2017 erano solo, ma si fa per dire, 311. Nel Regno Unito, secondo i dati forniti dalla polizia inglese, tra il 2017 e il 2018 672 casi di antisemitismo, un decremento rispetto al 2009 in cui sono registrati ben 703 episodi. E poi, dicevo, questo rapporto sottolinea come i social siano diventati un luogo prediletto per la diffusione dell'antisemitismo. Basti pensare che nel 2018 vi sono stati 384 casi accertati di odio antisemita e verificatisi proprio sui social. Secondo questo rapporto, la maggioranza degli autori sarebbero di orientamento islamista o sinistra. La motivazione prevalente? Punire gli ebrei a causa della politica aggressiva di Israele verso i palestinesi. Vi faccio sentire la voce di uno studioso. Tore Bjorgo insegna all'Università di Oslo e direttore del centro ricerca sull'estremismo SIREX. Nell'ultima edizione del loro rapporto, la Germania emerge come il paese europeo in cui sono più attivi i gruppi di estrema destra. C'è qualche motivo specifico per questa situazione? Ve lo faccio dire proprio da Tore Bjorgo. Well, it is linked to the fact that Germany has since Questo è legato al fatto che la Germania, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto un movimento nazionalsocialista molto forte, una scena nazista che è stata anche molto violenta. È cresciuta una sottocultura neonazista che sta dietro gran parte di questa violenza commessa da persone legate all'estrema destra. Molti di coloro che hanno commesso questi attacchi non sono necessariamente membri di queste organizzazioni, molto spesso agiscono di propria iniziativa, ma sono ispirati da una ideologia nazista o di estrema destra. Anche il dato della Svezia è significativo. Ha una popolazione che è pari a circa un decimo di quella tedesca. Ma la Svezia è il paese che ha avuto il maggior numero di attacchi terroristici di estrema destra in rapporto alla popolazione. Ci sono poi paesi come il Regno Unito, dove ci sono stati molti attacchi, e la Grecia. Questa è la voce di Tore Bjorgo, docente all'Università di Oslo, direttore del centro di ricerca sull'estremismo SIREX. Buongiorno e ben ritrovato, Nessun Luogo Lontano, invece ad Andrea Mammone, professore di storia dell'Europa alla Royal Holloway all'Università di Londra e autore del libro Transnational Neo-Fascism in France and Italy, e da tempo si occupa anche dei ritorni del nazionalismo in Europa. Professor Mammone, buongiorno, ben ritrovato qui a Nessun Luogo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, lei ha di recente pubblicato un articolo su un quotidiano britannico, il prestigioso Independent, e racconta che l'antisemitismo sta risorgendo in Europa e, secondo vari report, l'80% dei giovani ebrei europei sente che il fenomeno è peggiorato. Da dove arrivano gli attacchi di antisemitismo, secondo il suo osservatorio? Estrema destra, ambiente dell'estremismo islamico o chi altro? Beh, un po' di tutto. In realtà io condivido molte delle cose che sono state dette in trasmissione fino adesso. Sì. Cioè, il ritorno del nazionalismo comunque porta a fenomeni di esclusione, porta a una differenziazione tra comunità, tra gruppi chiusi. Guarda, a me non stupisce che sia ritornato, se mai fosse sparito, l'antisemitismo. Mm. Il problema è che adesso c'è una ventata di nazionalismo, spesso di destra, devo dire, ma non esclusivamente di destra, che porta proprio a trovare il colpevole, come succedeva in passato, per tutti i mali della società. Sì. E si è parlato molto, quello che ho potuto sentire nella parte di trasmissione, di Germania, Gran Bretagna, eccetera eccetera. Sì. Allora ricordiamo che effettivamente c'erano anche dei paesi europei come la Polonia, come l'Ungheria, dove diventa quasi un fenomeno strutturale, almeno negli ultimi anni, non ovunque, non ho sì. nessuna intenzione di generalizzare, però anche a seguito dell'articolo che ho scritto, che lei menzionava, ho sì. ricevuto moltissime critiche dalla Polonia e dall'Ungheria, perché dicevano no, in realtà non è antisemitismo, però bruciare delle effigi ebraiche, mettere dei poster, tappestare una città di poster antisemiti, dipingere un professore di Princeton, polacco, Gross, John Gross, sì. perché ha studiato i fenomeni dell'antisemitismo nel suo paese come una sorta di nemico della nazione, sono tutte cose che sono abbastanza preoccupanti. Ma secondo me non è solo antisemitismo in alcuni paesi europei, perché questo spessissimo poi si accompagna da un odio verso l'Islam alla stessa maniera, per cui c'è un fenomeno molto più grande, quello del razzismo. Purtroppo viene legittimato e banalizzato sì. giornalmente. Sì. Sì, allora anche questa, allora, oltre a essere un tema estremamente sensibile e delicato, si presta anche a interpretazioni molto spesso con l'accetta. C'è un ascoltatore che dice: peccato non avete il coraggio di andare a vedere l'antisemitismo islamico in Francia e quello nero New York. Abbiamo appena riferito no, della... No, assolutamente. si parla di tutto quanto. Sì, ecco, non ci sono censure o autocensure da parte nostra. Abbiamo appena riferito di questo rapporto di questo osservatore europeo che attribuiva esattamente come in Francia è così, la maggior parte dei casi sono attribuibili a, diciamo, una sfera islamista, come la maggior parte degli attacchi arriverebbero da appunto attacchi islamisti di matrice islamista o di sinistra. Certo è che il nazismo, che ha fatto dell'antisemitismo un suo grandissimo cardine, che riemerge con una certa virulenza proprio in quella Germania che ha visto quelle tragiche pagine di storia, è, signori, cari ascoltatori e ascoltatrici, una notizia, su questo non c'è dubbio. Perché però, professor Mammone, torniamo alle cause, perché un po' di ascoltatori mi stanno sollecitando, c'è qualcuno che scrive: ma perché da 2000 anni ce l'hanno sempre con gli ebrei? Perché girano continuamente in queste tesi complottiste, il complotto giudaico-massonico? Perché questo nemico privilegiato? E un po' di ascoltatori fanno notare casualmente che vi siano questi rigurgiti in generale di xenofobia e di razzismo proprio quando, come dire, magari le economie non vanno tanto bene, quando c'è un pochino di crisi economica, eccetera. Lei che idea si è fatto? Sì, è vero, sono vere tutte queste cose qui. Cioè, comunque esiste un odio verso la comunità ebraica che ha anche radici cristiano-cattoliche. Mm. Basta leggere anche alcuni giornali italiani, che nulla che avevano a vedere con l'antisemitismo, ma di matrice molto cattolica, ultracattolica del 1800, parlavano, descrivevano gli ebrei come una sorta di entità non proprio simpatica, diciamo, e benevola. Quindi esiste qualcosa che è strutturato in parte di una cultura europea occidentale. Come diceva lei prima, qui nessuno vuole dire che il fenomeno di sinistra islamici non porti all'antisemitismo, perché cioè, l'antisemitismo che c'è stato in Polonia e in Ungheria sotto il comunismo era evidente a tutti, cioè, certo. sono scappati molti certo. degli ebrei, quindi non si dice assolutamente questo, però come dice anche lei, non è un caso che il ritorno forte di fenomeni nazionalisti di idea estrema destra hanno portato a un aumento di questo, perché diciamocelo tutto, allora, l'ebreo è stato uno dei primi nemici. Sì. Arrivato a un certo punto, a partire quantomeno dagli anni Ottanta, con la vittoria di Jean-Marie Le Pen in Francia, con i successi di Jean-Marie Le Pen in Francia, si capisce che non paga più neanche elettoralmente, per certo. cui si comincia a utilizzare certo. l'immigrato, ci sono troppi certo. immigrati, perché c'era una coscienza anche, diciamo, pubblica molto più attento a determinati temi. Oggi fondamentalmente, anche grazie a internet, come si diceva prima, all'odio in rete, non ci sono più freni, per cui un nemico vale l'altro, si ritorna a tutti i nemici, a tutti quelli diversi, ma non è un caso, come dicevo prima, che il nemico è l'euro, può essere l'Europa, può essere l'opponente politico, può essere il musulmano, può essere la persona di colore, può essere l'ebreo. Quando poi si utilizzano anche temi come Soros che inonda l'Europa di immigrati islamici, cioè, guarda, bisogna anche mettersi d'accordo, cioè Soros che viene da una certa tradizione inonda dei suoi nemici, cioè fondamentalmente, quindi a volte si banalizzano determinati temi, si mette tutti in un calderone senza poi distinguere e chiamare le cose per quelle che sono, cioè fondamentalmente oggi si assiste a fenomeni di razzismo, punto. Cioè, non c'è altro da dire. Ringrazio per l'estrema chiarezza. Prego. E voglio dire, lo sguardo storico del professor Mammone, lo ricordo, insegna appunto storia dell'Europa alla Royal Holloway di Londra, ci restituisce anche una dimensione, una continuità, forse ci aiuta a capire meglio il fenomeno, senza accetta, senza approcci manichei, bianco e nero, sfumature, complessità, ancora una volta, sono forse la parola chiave, principe di questo programma. Grazie mille, professor Mammone, scusa, una buona giornata e un buon lavoro, professore, alla prossima. Noi facciamo una piccola pausa, andiamo sulle strade italiane, poi apriamo l'ultimo capitolo, tanto invocato da tanti ascoltatori al 349-238-6666, che continuano a dire... Ma non è solo l'estrema destra, ci sono anche i musulmani. Adesso ci arriviamo, apriremo il capitolo medio orientale. Attenzione, sempre senza banalizzare e cercare di semplificare cose che non sono semplici, rimangono complesse, non ci possiamo fare nulla. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ancora una buona giornata, ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Stiamo tentando un'analisi, pur, come dire, nella tirannia del poco tempo per un argomento così complesso e così spinoso, di analizzare quei rigurgiti di antisemitismo che attraversano tutta l'Europa, che il professor Mammone ha ricondotto a una generale xenofobia. Secondo le ricerche, la maggior parte di questi attacchi non arriva, attacchi contro gli ebrei, le comunità ebraiche in Europa, non arriva tanto dall'estrema destra, come forse una certa narrativa potrebbe far pensare, ma dal punto di vista meramente statistico arrivano piuttosto da ambienti islamisti e più genericamente di sinistra. Certo è che se vogliamo, come dire, esplorare quel grande magma che ho appena nominato e ho inopinatamente messo insieme ambienti di sinistra con l'islamismo estremo, dobbiamo andare dritti a quelle che sono le formazioni jihadiste, quelle che in tantissimi casi hanno tuonato contro Israele e contro gli ebrei, penso alle parole di Bin Laden, i testi dell'ISIS, tutti accomunati dall'odio verso gli ebrei. Ma da dove nasce questo antisemitismo? Come fa a essere un così insostituibile pilastro del fondamentalismo islamico e perché? Mi soccorre in questa analisi Marina Calculli, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Leiden. Professoressa Calculli, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo. Buongiorno a voi. Allora, come è stato possibile creare un così formidabile, solido pilastro che ha retto per così tanti secoli? Ma in realtà io non parlerei di tantissimi secoli, cioè, ma anzi forse proprio la storia ci aiuta un attimo a rivedere alcuni miti che spesso vengono utilizzati anche politicamente nella contemporaneità. Non è vero che in realtà, diciamo, se guardiamo al mondo arabo e musulmano, che sono due mondi che appunto devono essere comunque tenuti distinti perché poi hanno dato nella storia origine a ideologie diverse, diciamo, ci sono in realtà, abbiamo dei dati contrastanti. Per esempio, per fare un esempio, quando gli ebrei furono cacciati dalla Spagna nel 1492, quando fu imposta a loro la conversione forzata nel 1497, si rifugiarono proprio nell'impero ottomano, quindi nel califfato, quindi un impero appunto islamico, fondato sull'Islam, che in quel momento... poi ci sono stati altri esempi, per esempio nella Seconda Guerra Mondiale, in maniera molto interessante, se guardiamo alla compagine europea, inclusi i Balcani, dov'è che gli ebrei sono stati davvero protetti da, anche con una grande assunzione di rischi da parte dei cittadini che hanno appunto dato protezione, sì, agli ebrei in Albania, dove soprattutto nel Kosovo, dove c'è una fortissima popolazione, certo, musulmana, certo. Quindi ecco, cioè, tenderei un attimino a ridimensionare narrativa nella contemporaneità. Nella contemporaneità ci sono due eventi che hanno sicuramente portato ad un uso anche politico dell'antisemitismo. La prima è, si deve essere ricondotta alla rivalità tra il nazionalismo arabo e il sionismo, che appunto è il nazionalismo religioso ebraico, sì, quindi è una cosa che è cominciata nel XIX secolo e poi è esplosa dopo la creazione dello Stato di Israele. Sì. Nel mondo arabo, alcuni movimenti jihadisti utilizzano, sicuramente l'ISIS è uno dei più importanti, anche Al-Qaeda utilizza un discorso antisemita, proprio perché è un gruppo settario che quindi se la prende molto con gli ebrei, quindi li stigmatizza come gruppo, quindi possiamo parlare di vero e proprio odio, di stigmatizzazione, sì, identitaria, come però accanto, vorrei ricordarlo, vengono stigmatizzati i cristiani e anche gli sciiti, i musulmani, sì, sciiti, da, sì, parte per esempio dell'ISIS. Sì. C'è poi un ultimo discorso che, insomma, appunto questo in questo uso anche politico molto spesso dell'odio religioso, sì, ci sono delle dinamiche e degli specchi problematici, cioè nel senso è anche vero che dall'altro lato c'è una parte, per esempio, della destra israeliana che ha sempre utilizzato l'antisemitismo, anche esagerando alcune caratterizzazioni di stati rivali, come per esempio l'Iran, sì, che per carità a volte ha utilizzato l'antisemitismo, per esempio... Sì, però è anche vero che ha una comunità ebraica molto corposa, no? Certo, cioè credo sia la prima o la seconda comunità ebraica in Medio Oriente, esatto, adesso non voglio, esatto, ecco, quindi insomma, esatto, sono evidentemente, quindi, anche proclami a uso e consumo di una certa politica che, come diceva lei giustamente, professoressa Calculi, strumentalizza, no, questo antisemitismo, sembra una formidabile leva politica in mano un po' a tanti attori, o mi sbaglio? Esatto, cioè diciamo che l'antisemitismo è un problema reale, però deve essere anche appunto proprio per combatterlo davvero, così come accanto alle altre forme di odio religioso, xenofobia, eccetera, eccetera, deve essere contestualizzato e bisogna anche restituire complessità al fenomeno. Proprio per questo, come diceva giustamente lei, è anche vero che l'antisemitismo è stato anche utilizzato come un'arma politica da appunto alcuni attori che hanno appunto, per esempio la destra israeliana, facevo riferimento, sì, prima alla destra israeliana, per mettere a silenzio qualsiasi forma di critica nei confronti dello Stato di Israele. E questo chiaramente è problematico, certo, perché è chiaro che uno Stato si può criticare. Certo, no, e viene fatta invece un'immediata equivalenza appena si dice: guardate, esatto, la politica israeliana in West Bank è criticabile, ecco, sei antisionista, chiedo scusa, antisemita. Ed è quello, tra l'altro, che una grande studiosa, tra l'altro ebrea, Judith Butler ha definito come la tendenza anti-intellettualista che domina il dibattito pubblico oggi, soprattutto sia in Occidente quanto appunto in Oriente, e che tende a mischiare argomenti diversi e soprattutto a evitare la complessità, proprio sono d'accordissimo, sono santissime parole, forse sono blasfemo nell'utilizzare questa parola parlando di questi termini. Marina Calculli, grazie infinite, la ringrazio, purtroppo il nostro tempo sta scadendo, ma questa celebrazione, omaggio alla complessità, è difficile, bisogna immergersi, bisogna fare fatica, camminare a volte sulle uova per cercare di spiegare questo nostro difficile, complesso mondo, ma ci torneremo. Grazie mille, professoressa Calculli, lo ricordo, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Leiden. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Allora, ho 30 secondi, appunto, a proposito di complessità dei palestinesi, non dite mai nulla, gentile ascoltatore, forse non ci ascolta da tantissimo, ma sono felice se è un nuovo ascoltatore, anzi lusingato. In realtà, per esempio, durante le elezioni in Israele abbiamo parlato molto di Palestina per come i palestinesi vivevano e abbiamo spiegato anche della discutibilissima politica dei territori occupati, ma non lo dico io, lo dicono le grandi organizzazioni internazionali. Detto ciò, il tema interessa, quindi noi ci torneremo. Fra l'altro, Donald Trump in piena campagna elettorale ha lanciato il suo super piano Marshall per la Palestina. La settimana prossima vede Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, insomma un Trump in graspolvero che promette, speriamo, di fare grandi cose per il Medio Oriente. Io vi prometto una sola cosa, che parte da una parola, Valeria Bernardi. Vi prometto i titoli di coda che servono a ringraziare voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Appuntamento domani ore 10 per il meglio di, e lunedì, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.